lunga quanto un'eternità. Certe notti limpide puoi vederci una folla che va, sono i tagliati fuori, i diseredati di ogni età, gente di nessuna identità. Hanno gli occhi come spenti, sguardi fissi che non sognano più. Quanto camminare poi per un metro in più di dignità, c'è una strada in cielo lunga come un'eternità. Non li chiamano angeli e non li chiamano santi, forse sono degli uomini che restano indietro come tanti, non li chiamano angeli e non li chiamano mai, quelle bocche che parlano e parlano ma che non dicono niente, proprio niente. Puoi trovarlo là, su dalla sua terra che fa sudare anche l'anima. C'è una strada in cielo lunga come un'eternità. Non li chiamano angeli e non li chiamano santi. Quelle bocche che parlano e parlano ma che non dicono niente, proprio niente. Che fa il giro e poi ritorna qua.